La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле еле. Vorrei cominciare stamattina salutando Oscar Giannino per ringraziarlo della forza con cui ci sta parlando della realtà italiana nella sua trasmissione, in cui difende i nostri interessi di cittadini e anche mette a disposizione la sua sapienza economica oltre al suo slancio. Lui non ha niente da guadagnarci e molto da perderci. Ascoltandolo capisco tante cose e capisco anche che se l'Italia non è ancora sprofondata nel Mediterraneo è perché ci sono ancora dei grandi romantici come lui che si permettono di avere il senso della giustizia e abbattersi per affermarlo. Ci tengo a dire che non sono amica di Oscar Giannino, l'ho visto sino due volte nella mia vita di passaggio, sono una sua ascoltatrice. La mia mattina è sempre molto bella quando posso ascoltare la trasmissione sua e Melog di Gianluca Nicoletti. Sono proprio una maniaca dei fari. Nell'ultima settimana di giugno ho lasciato il faro di Capo Finisterre per andare in un altro faro, a Ventotene, per un incontro fra scrittori che si chiamava appunto Gita al Faro, ispirato al titolo del romanzo di Virginia Woolf. Ci sono cinque ragazze che si chiamano Francesca Mancini, Laura Pesino, Marianna Morano, Vania Ribeca e Alessandra Mulas, che hanno fatto un'associazione culturale chiamata non a caso Le Turbine, vedendole lavorare si capisce perché. E hanno avuto questa idea di andare in questa piccolissima isola a fare conoscere gli scrittori fra di loro. Il nostromo di questa gita è stata Lidia Ravera, che poi è un'isolana, in quanto ha scelto da molti anni di vivere grandissima parte dell'anno nell'isola di Stromboli, filosofa visionaria che non smette di lavorare la parola manco quando dorme. In questa gita, cioè in questo convegno letterario, non si vince niente. Non ci sono gare, non ci sono premi. Il premio è essere lì a guardarsi in faccia, a conoscersi e poi alla fine scrivere un racconto ambientato a Ventotene. Tema liberissimo e anche la forma libera. Lodoli ha scritto un poemetto, io ho scritto un atto unico e via dicendo. Questa cosa è stata fatta perché gli scrittori italiani si incontrassero, si leggessero, si ascoltassero, perché Lidia Ravera e anche Le Turbine sanno che la letteratura italiana è frazionata e divisa in ghetti che non comunicano e per lo più gli scrittori se ne fregano gli uni degli altri. Quindi hanno fatto questo atto di magia, di coraggio, di letizia, perché oggi, anche se non si dice, ma è nei fatti, la letteratura italiana è fiorente, è sorprendente e questo non viene registrato. La critica dorme e non può seguire il risveglio, non è all'altezza del fenomeno, non è abbastanza artista. Presuntuosamente da giovane dicevo, ma se devo essere giudicato voglio un De Sanctis, anche se poi la debolezza umana è tale che quando pubblichi un libro, anche se quello che tu consideri l'ultimo dei cretini scrive che è bello, alla fine ti fa piacere. Però non bisogna essere fiscali, non bisogna essere aritmetici e pretendere che ad un'azione poetica corrisponda una reazione critica adeguata. La letteratura non va così. Basta pensare a grandi autori come Ippolito Nievo o Nikolaj Lieskov, che Tolstoi considerava un suo pari, e sono ancora considerati dei minori, uno in Italia e l'altro in Russia. E mentre in letteratura sono nati degli scrittori sorprendenti, cito soltanto Antonio Pennacchi, cito Carlo D'Amicis, nella critica non è nato un De Sanctis. Non che non ci sia qualche persona illuminata, ma non c'è una fioritura, una corrente significativa che sappia interpretare e vedere nel suo insieme questo grande risveglio. E Lidia Ravera, il nostro uomo, aveva anche scelto la ciurma. La ciurma era composta da me, poi da Caterina Bombicini, Marco Beliani, Marco Lodoli, Francesco Pacifico, Sandra Petrignani, Laura Pariani e Sandro Veronesi. Io metà di questi non li conoscevo nella vita e non avevo mai letto una riga, anche se sono molto più famosi di me. Ero molto tentata, però pensavo, ma se poi si crea una situazione antipatica ero pronta alla fuga. Non c'è stato bisogno. Girava della pazzia, girava della poesia, girava l'intelligenza. Non è che abbiamo fatto granché, non è che abbiamo rivoluzionato la letteratura italiana, abbiamo fatto delle gran bevute parlando di letteratura. E poi abbiamo fatto anche dei grandi incontri, come a parte le turbine, questo Fabio, il libraio, che potrebbe essere un esempio di virtù di quelli iscritti nelle pareti del purgatorio, per la passione, la capacità, addirittura aveva fatto dei nostri libri in una biblioteca circolante, ce li prestava perché volendo ci potessimo conoscere gli uni con gli altri. E poi la lettura dei racconti è stata fatta in questa baia con la luna e col faro che ci buttava la luce in faccia ogni momento, ed è mancato un caso unico nella vita di gruppo, è mancato un personaggio che c'è sempre nella convivenza umana, è mancato lo stronzo, sia tra gli scrittori e sia tra gli organizzatori. Ecco, bastava guardare come si vestivano le turbine, una fantasia, un'allegria che era già il manifesto delle loro intenzioni. Oh, scendendo a terra, fra i tanti, vorrei ringraziare, a parte il musicista che ha composto delle musiche apposta per il convegno, si chiama Valerio Vigliar, anche due ascoltatori della Guardiana del Faro, che sono Giulio e Adriano Ciarelli. Adesso leggerò questo racconto burlesco, a me naturalmente me l'hanno fatto leggere per ultimo perché mi fanno sempre fare la comica finale, e lo leggerò con Marco Fabio Apolloni, del quale abbiamo letto spesso i sonetti romanesco tratti da Er puttaniere arcadico, e che aveva già letto, aveva già prestato la voce all'angelo custode di Antonio Pennacchi quando ho avuto la fortuna di intervistarlo. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Notte. Un uomo e una donna si incontrano in una stradina di Ventotene nel buio. Amore, sei in ritardo. Mia moglie t'ha visto uscire? Tua moglie? Tua moglie, appena volti l'occhio, corre a flirtare con Umberto. E se non lo trova, va ad Altiero. Come ti permetti? Mica sono tutte come te. Tu, mia moglie, non la devi manco nominare. A parte che l'hai nominata tu, ma se la rispetti tanto, perché mi chiami amore? Perché sai di Lilla. È lavanda. La raccolgo sulle rocce. Non ci indovini mai. La tua ignoranza di tutto quello che non sia libresco, degli odori, dei sapori, mi incanta. Il mio uomo di carta. Andiamo a letto? Non si può, lo sai. Uffa, voi sposati. Fra noi c'è un ostacolo più grave, sai bene quale. Tu ami tua moglie? La adoro. Adorare non è amare. Come fai a preferirmi una che non sa portare la veste sopra le caviglie? Lei sa portare il peso della vita, altro che Saffo. Ma io ti piaccio o no? Oh sì, perché sei frivola, feroce, incorreggibile, amorale, ingiusta, classista, spietata, capricciosa. Sei il sogno inconfessabile di ogni rivoluzionario, una signora, una che da un momento all'altro ti consegna alla polizia. La mia vita è così seria. Con la mia diletta moglie pensiamo sempre all'Italia e all'Europa di oggi, come le volevamo costruire e come si sono ridotte. Ma non avevi già previsto ogni cosa? I tuoi scritti sono una profezia. Ma quale profezia? Erano l'antidoto, perché ciò non accadesse, perché non venisse il reame delle banche. E con la mia Ada, certe volte ci sembra che tutti quegli anni di lontananza, i sacrifici, la galera. No, scusa, di la verità. Ora che sai che è andata a finire, se tornassi indietro, invece di fare l'eroe, io credo che ti daresti la pazza gioia. Parigi, Nizza, Baden-Baden, ti sputtaneresti tutto al poker, alla roulette o a trente carante con le zoccole. Povera amica mia, che povero schema del piacere. Dove andiamo? Al solito posto, sotto il pergolato. Ehi, ma è occupato. Guarda, i soliti gitanti. Come osano? Quando contavo ancora qualcosa, li avrei fatti cacciare dai servi. Se dovessi cacciare tutti i turisti, non basterebbe un esercito. Ma quelli, invece dei borsoni da mare, hanno i libri. Non sono i soliti turisti. Peggio, intellettuali. Non li sopporto. Aspettiamo che vadano via. Acquattati nell'ombra, aspettano. Aspettano. Ma quelli parlano, parlano. Non la finiscono più. Si è fatto tardi. Mia moglie mi aspetta. Non posso vederla triste. Io vado. Che palle, il solito moglione, il mammone della moglie, quelli che sono sempre innamorati fuori di casa e non se ne vanno mai, facendo soffrire moglie e amante. E tu saresti capace di soffrire? Per te sì, resta con me. Non posso. Io ho più diritti di lei, t'ho amato subito, Appena ti vidi arrivare sull'isola, con la tua barbetta, la valigia piena di appunti, fra due gendarmi. Eri bianco bianco, dopo 9 anni di carcere. Ma tu allora non eri nelle condizioni di accorgerti di me. Stavo sempre a lavorare, per un futuro più libero e giusto. Mandandomi a ventotene in regime, mi regalò 4 anni di studio fervente, di concentrazione e lo scambio di idee coi compagni. Quelle conversazioni politiche sorprendenti e saporite. Mai, mai più sono stato così ispirato. Ah, i beati tempi del confino. Sai, mi facevi anche tenerezza. Ho pensato, se l'hanno mandato qui, si vede che anche come ribelle conta poco. Se no, lo mandavano a Capri. Capri? Dio ci scampi. A Capri i fascisti ti cascavano addirittura in testa. Era di moda arrivare buttandosi col paracadute per farsi notare. Ti piombavano dal cielo tra capo e collo un balbo, un ciano, e per strada incontravi Göring. Qui invece la gente ci voleva bene, anche se l'isola è così piccola, che scrissi a mia moglie, più che un'isola è una barca. Da qualunque parte ti muovi, cadi in mare. Io entravo di nascosto nella tua stanza e ti guardavo dormire. Pensavo, il tempo gioca a mio favore. Lui farà, ma verrà un giorno in cui si dovrà accorgere di me. Una volta ti eri addormentato sul manoscritto di Abolire la miseria e ti ho baciato in fronte. E quando tua moglie doveva venire a trovarti, pregavo Afrodite di scatenare la tempesta perché il traghetto non partisse. E se mi esaudiva e lei rimaneva a terra, ero felice. Ma durava poco. Senza di lei tu diventavi triste. E io allora ero più gelosa che se fosse stata lì. Poi un giorno sei andato via. Era il 1943. Da lì è cominciata la mia attesa. Lunga, molto lunga. Finché un giorno sei sceso dal traghetto. Eri sempre più giovane, con la tua barbetta, gli occhiali e sempre somigliante un po' a Trotsky, ma meno aguzzo. Io ero lì, al molo. E per la prima volta hai potuto vedermi. Che hai pensato? Che eri bella. Per qualche anno siamo stati liberi, sempre insieme. Poi, ciò che temevo è accaduto. Tua moglie ti ha raggiunto. E da allora siamo clandestini. Io sono diventata l'altra. Lasciami andare. Vedi laggiù alla finestra? Mia moglie piange. La vedo pure io. Ma se sta ridendo? Piange dentro. Io la sento. Ti aspetto domani, qui, alla stessa ora. Questi qua se ne saranno andati, no? Ma, e chi lo sa? Chiacchieroni come sono. Senti, per sicurezza, vediamoci a Villa Giulia. Sai, sotto il nostro tempietto. È stato lì che provai a darti il primo bacio senza riuscirci. E allora ti dissi i versi di Swinburne. Amore, mio amore, se tu mi avessi amato, fermi come le stelle saremmo stati e ci saremmo mossi come si muove la luna, amorosa del mondo. Se la sorte fosse stata buona con noi e non lo è stata, la pienezza del tempo ti avrei dato e la vita per giunta, se soltanto una volta, per un'ora, fossimo stati una cosa sola. Sì, lo so bene. Se un giorno fossi stata mia, mia nel pulsare del sangue, mia nel respiro, non il tempo che dice e nega, né tutte le cose forti ci avrebbero diviso allora, non tutte le cose terrene, non tutte quelle divine, non la gioia, né il dolore, non la vita, né la morte. Mai più sarò amico delle rose. Il giorno dopo, i due amanti arrivano a Villa Giulia e trovano che il posto è già stato occupato dagli intellettuali, i soliti, che ora discutono all'ombra del tempietto. No, pure qua, nel nostro tempietto. Cacciali via. E come faccio? Già, lui non può. Lui non sa difendere la sua donna. Quando contavo ancora qualcosa, li avrei spellati vivi, anzi, li avrei dati in pasto ai cani. Una volta l'ho fatto, sai? Con 2 pezzenti che erano entrati nei miei giardini senza permesso. Senti, ne so già abbastanza del tuo passato, senza che aggiungi altri particolari ributtanti. Fa lo schizzinoso, lui. Si batte per la civiltà, lui. E adesso questi come li cacciamo via? Con la democrazia? Mi sono informato, so tutto di loro. Sono scrittori. È un festival. Si chiama Gita al Faro. Sono qui per conoscersi. Carnalmente? Possibile che pensi solo a quello. Chi è quel paggio dal folto caschetto biondo? Elegante, autorevole, severo, me lo farai volentieri. È Lidia Ravera, e non è un paggio, è un gentiluomo. È l'archimandrita del gruppo. Filosofa e visionaria, lavora sulla parola anche quando dorme. In letteratura vuole resuscitare la passione. Per questo la gita al faro. E quella bella ragazza, riccia come una primavera? Caterina Bonvicini, una giovane scrittrice, una che non ha paura di niente, nemmeno di essere gentile. Cos'è che guardi? Le sue tette finte? Eh no, cara, qui ti sbagli, quelle sono vere. Ce ne sono così poche in giro che c'è un piano di protezione del WWF. Oh no, ma da quando sei diventato un esperto di tette? Ma occupati di economia, che è meglio. Però, se fosse vero che sono vere, mi piacerebbe giocare un po' con lei. Che? Ti vuoi fare pure la Bonvicini? Lei non l'ascolta, ora guarda ingordamente il più giovane del gruppo. Chi è quel gagliardo centurione? Francesco Pacifico, scrive di... Ma che bel forzuto! Occhioni voraci, due gambe che sembrano colonne di tiro e quel barbone ruvido. Oddio, ha qualche chilo di troppo, ma glielo faccio perdere io. Dici che ci sta? E lo chiedi a me, donna senza rossore. E chi è quel ricciolone alto alto che sembra un ginnasiale travestito da grande? Marco Lodoli, artista ed educatore, padre di 3 bambini. Ha un'aria per bene. Mi piacerebbe levargliene un po'. Deve essere un sentimentale pudico. A letto sono i migliori. Gnam gnam. Io quello me lo mangio. E dici di amarmi. E quella donna dall'aria dolce e ardita, con 2 seni notevoli, suppongo autentici, con una massa di capelli quali mai ne vidi. Sandra Petrignani, autrice di... Ti piace, eh? Ci verresti a letto con me e con lei? Quanto sei noiosa. Quel signore con la barba grigia è il suo compagno, Paolo Donati, musicista insigne. Lei, soppesandolo, elegante, risorgimentale, musicale, niente male. Ma quei due sono troppo affiatati, che se lo tenga, non ho voglia di faticare. Se no, lui mi cadrebbe i piedi all'istante. E quella dalla lunga chioma ramata con gli occhiali, che va col suo compagno come fossero uno solo. Laura Pariani e il suo terzo marito, Nicola. Interessanti, non sono terrestri. Si vede subito. Al mio catalogo manca un'esperienza coi marziani. Ma lo capisci che gli altri non sono tutti giocattoli per le tue voglie. Peccato. Per me era davvero così, una volta, finché mio padre non m'ha sbattuta su questo scoglio. Scostumata. E il grave è che ti piaci così. Sei fiera di esserlo, è proprio vero. Volgarità essere dalla parte della propria degradazione. E allora sappi che questi corpi hanno un'anima e una poetica. E mo te le sciroppi e zitta. Ma... Se no non mi vedi più. Così smetto di tradire la mia Ada. Stanotte ho compulsato le loro opere e te ne darò conto a ciò che ti vergogni di aver considerato costoro come meri trastulli sessuali. Rassegnata, la donna ascolta, sbadigliando a tratti come un orco. E per evitare che sbadigliate anche voi, o ascoltatori, tra cui en passant ringrazio Giulio di Ventotene, saltiamo l'esegesi letteraria dei partecipanti alla gita al faro. Ma lei, di malavoglia, l'ha ascoltata tutta e dopo essersi tenuta a fatica, sbotta. Charmanca, charlatanca. Stavo leggendo un racconto intitolato Amanti, scritto in occasione della gita al faro, un convegno di scrittori a Ventotene, dove ci sono 2 amanti nell'isola che per qualche ragione misteriosa hanno una grande difficoltà ad amarsi fisicamente, a congiungersi, i quali sono molto disturbati perché nell'isola sono arrivati gli scrittori, che guarda caso si prendono tutti i posticini dove i 2 amanti si incontrano di solito. I 2 amanti hanno 2 caratteri opposti, lui è una persona seria. Lei è una ninfomane allegra e scatenata e si fa spiegare dal suo amante chi sono questi scrittori uno per uno e di ognuno dice ma io questo me lo farei volentieri con grandissimo dispetto e dispiacere di lui. Quindi riprendiamo al punto in cui lui continua ad illustrare chi sono queste persone. E quella col naso lungo e i capelli bianchi? Barbara Alberti, casalinga scrittrice. Ma perché dice sempre cazzo? È un'invocazione? No, è che è rimasta ai suoi tempi, quando dire le parolacce Era una conquista, una liberazione, un arricchimento politico-letterario. Usare la lingua tutta intera, contro i limiti dell'ipocrisia. Ma oggi che gli italiani conoscono solo 10 parole, di cui 8 sono parolacce, da rivolta sarebbe parlare con una signora vittoriana. Io di suo non leggerei manco una riga. Ti capisco, nella vita è la scimmia della sua scrittura. Basta con le anime, parliamo dei corpi. Chi è quel riccetto consistente con l'occhio etrusco? Aspetta, aspetta, ma io lo conosco quello lì, l'ho già visto. Ma sì, su una parete di Pompei dipinto, è il fauno della sala delle meduse. Ha perso il piede di capro e la siringa, ma ancora quelle basette ispide che alludono alle foreste ove saltellava, felice e sfrontato. Che bella bestia! Ma quale bestia scellerata! Quello è Alessandro Veronesi, scrittore di fama mondiale. Ha vinto lo Strega con Caos Calmo e ci hanno fatto un film che ha suscitato grande scandalo per un atto sessuale compiuto sullo schermo da un santino della sinistra. E quale atto? Sodomizzazione? Sì. E perché si sono scandalizzati? Perché è considerato contro natura. Ma se lo fanno tutti? Proprio tutti no. Io non ho mai degradato la mia Ada con una tale pratica. Ma davvero? Ma com'è possibile che volendole bene, nella comunione dei sensi, non ti sia mai venuta la curiosità di fare un giretto dall'altra parte? È così vicino. Tu trasformi tutto in chiacchiere da lupanare. Stiamo parlando dell'autore di Profezia, la cosa più bella della letteratura italiana da molte stagioni, come scritto sulla fascetta. Ma dimmi di quel giovane virile e dolce come un cervo, le ciglia frangiate, la Cleopatra, con quegli occhi fra stagno e mare, che fanno tutta la sua persona turchese e un po' silvana. È Fabio, il libraio di Ventotene, un mistico della diffusione della cultura. Te lo scordi? Me Hercules! Hai detto? Niente, imprecavo il latino. Per Ercole, dicevo. Ma c'è proprio un rappresentante per ogni tipo di seduzione. C'è anche il piccolo principe, guarda! Il disegno di Saint-Exupéry fatto uomo. Alto, filiforme, svettante come il fiore con cui ha litigato. I capelli da ragazzo degli anni venti. È il piccolo principe e ci si veste pure, coi pantaloni un po' a campana e quella sciarpa rossa che gli arriva fino ai piedi. E il musicista? Valerio Vigliar, ferma, non me lo dire. Ti vorresti portare a letto pure quello? No, quello no, pensa. Non si va a letto con un fiore. Non ti credevo capace di pensieri così delicati. Beh, in effetti mi capita di rado. La donna aguzza gli occhi come un'aquila d'altura, fissando un altro partecipante. Ma sono uno meglio dell'altro. Altro che festival letterario, è un bouquet di grazie. Scorgo solo ora quel magnifico esemplare elegante e asciutto. Ma è bello come Clint Eastwood, con quella faccia bergmaniana, da santo medievale. Potrebbe essere il cavaliere del settimo sigillo, quello che gioca a scacchi con la morte. Ma di chi parli? Non fare finta di non vederlo. È quello accanto alla bella aristocratica dai capelli argento bianco da gabbiano che la fanno sembrare ancora più giovane. Giù le zampe, da Marco Baliani e da sua moglie. Marco e Maria sono due grandi affabulatori. Portano nei teatri e nelle piazze l'arte del narrare. Lui è parente di Todd Browning, il grande regista del muto, l'autore di Freaks. I Freaks sono tutti suoi. Il monco, l'uomo che adora la bomba, il mistico che fotte la terra. C'è una pietà picara e religiosa nel raccontarli. E c'è il terzo occhio, l'umorismo. I Baliani sono molto più che sposi. Loro due da soli sono come tutta la compagnia di Capitan Fracassa. Lei già puntando una nuova preda. E quel bel ragazzo tatuato con l'orecchia punta da pan, cosa scrive quello? Niente, è un pescatore di passaggio. Carino, mi piace. E ti pareva. Ma ce n'è stato mai uno che non ti piacesse? Sì, mio padre. Quel lussurioso bigotto tartufo predemocristiano sepolcro imbiancato. Ah sì, e poi una volta, mi ricordo, un trace vaioloso, mancante del naso e di una gamba. Però, pensandoci bene, pure quello. Basta! Andiamo via. Io questi me rifaccio tutti. Eppure qualche signora se mi gira. A me non mi ha mai detto di no nessuno. L'uomo perde il controllo, alza la voce. Ma chi ti vorresti fare, tu disgraziata? E come fai a farteli? E chi me lo impedisce? Tu? No, la nostra natura. Lo so che non vuoi sentirtelo dire, che fai finta di niente, ma è così. Diciamocelo apertamente per una volta. Noi siamo fantasmi, Giulia. Io sono il fantasma di Ernesto Rossi, che venne qui a scontare la sua opposizione alla dittatura. E tu sei il fantasma di Giulia, figlia dell'imperatore Augusto, che ti esiliò per la tua condotta scandalosa, perché eri capace di aver commercio carnale con chiunque, come dicono i documenti. Atque canem, e non sei cambiata. Noi non abbiamo un corpo per l'amore, Giulia. Non siamo mai riusciti a congiungerci nemmeno tra di noi, perché non abbiamo più bocca, né pelle, né mani. Deridi crudelmente il nostro handicap. Eppure ti posso garantire che un metodo ci sarebbe. Amica mia, tu deliri, di che parli? Del metodo Ghost, come nel film. Ci si insedia in un umano e si agisce attraverso di esso. Io mi insedio nella Bonficini e mi giaccio con tutti. Lui le dà un ceffone. Aia! Se avessi le mani mi avresti fatto male. Gliene dà un altro, immateriale ma sentito e fuori di sé. Puttana! E ti viene in mente adesso, per fornicare con degli estranei, con loro invece che con me. Ma tu, sei geloso. Sì, fino al delitto. Tu dici di avermi amato a prima vista? Io da molto prima, dal liceo, quando studiavo Tacito, io sognavo di te. Ti vedevo come nel quadro di Pavel Svedomsky, dove appari nei tuoi veli bianchi, solitaria sulle rocce, prigioniera davanti al mare. Eri un verso di Baudelaire, sua belle, sua triste, malinconia e lussuria. E quando venni qui, vagavo sulle rocce sperando di incontrare la tua ombra. Una volta, mentre stavo pescando, ti ho sentita dietro le spalle. Sì, come se tu fossi dietro di me, in me. C'ero. Scrivevo ai compagni e pensavo a te. E poi finalmente sono morto e sono diventato un fantasma anch'io. E sono tornato qui per te. E da fantasma ho potuto vederti. E cerco di abbracciarti. Ma siamo nebbia. E adesso che viene fuori quest'idea meravigliosa di poterci congiungere attraverso altri corpi, lo vuoi fare col primo che passa. Una sola cosa mi dispiace: non poterti ammazzare. Donnaccia! Giulia gli butta al collo le nebbiose braccia. Finalmente, Ernesto! Sono riuscita a farti ingelosire. Altrimenti, moralista come sei, il metro Ghost non lo avresti mai accettato. Ma non hai capito che io lo voglio fare con te, solo con te. Però bisogna scegliere due corpi adesso per poterci finalmente abbracciare con le braccia, baciare con le labbra. Ma chi? I due aspiranti amanti si mettono con serietà a tracciare grafici per decidere chi saranno i prescelti, studiando le possibili formazioni. Ravera, Veronesi? Troppo amici. Non impossibile, ma arduo. Ci vorrebbe troppo tempo e il risultato non è garantito. Poi sai, lei è una fortezza difficile e c'è pure il suo Mimmo. Veronesi ama la moglie e hanno una carrettata di figli. Facciamoli bere. Bastasse, si ciuccano tutte le sere. Bonvicini Pacifico? No, lei è innamorata pazza d'un altro. È nella fase eroica dell'amore. Non lo tradirebbe nemmeno sotto tortura. Petrignani Donati? Quelli stanno già insieme, è più facile. No, sai, è che spesso dormono in camere separate e se non è la sera buona, come facciamo a trasportarli? Pariani marito? No, lei la sa troppo lunga sui fantasmi, ci sgama subito. Nel suo libro, Quando Dio ballava il tango, se messa in contatto diretto, non si può. I coniugi Baliani, sereni, si vogliono bene, non si lasciano un attimo. Non ci sono controindicazioni di sorta. Aggiudicati. La decisione è presa. Tenendosi per mano, Ernesto e Giulia si appostano in camera da letto di Marco e Maria, con indicibile emozione e una gran paura che il piano non riesca. Lei, deposta la maschera della cinica ninfomane, sospira come una fanciulla. Ah, Ernesto, funzionerà. Speriamo. Se riesco a metterti le mani addosso, non te le levo più per l'eternità. Eccoli. Pronti? Insieme? Via! I due fantasmi si tuffano nei due coniugi, che avvertono una leggera scossa. Ciò che accade da quel momento non si può dire. Eros punisce chi divulga i suoi misteri. È mattina. Maria e Marco Baliani entrano nella sala della colazione. Marco. Accidenti, sei una bomba del sesso, Maria. Che non lo sapevi? Sì, ma come stanotte mai? Mi sembrava di stare a letto con Messalina. E io, come avessi avuto voglia di farlo con te da una settantina d'anni e non ci fossi mai riuscito prima. Anch'io, sai, Marco, sentivo come una fame di secoli. La nostra intesa fisica è sempre stata eccellente, ma stanotte eri indemoniato. La cameriera, cosa vi porto? Succo di frutta, caffè con panna, yogurt, formaggio, salsiccia, uova alla piastra, ciambella, bomba, la crema, pizza, cornetti, fichi, un tocco di mortadella, cocomero, pane, marmellata, crostata, salame e una dozzina di mozzarelle. Ricotta. Mentre aspettano la colazione, Maria avverte un brivido. Anch'io, Maria, e le lecca un orecchio. Poco dopo rientra la cameriera col vassoio ricolmo e lo lascia cadere con fracasso alla vista dei coniugi Baliani che si stanno accoppiando sul tavolo nella posizione numero 28 del Kama Sutra, fra le più acrobatiche. Cameriera: signori, no! Anche se è un commendevole esempio di amore coniugale, sul tavolo della colazione no, non si può. Con l'ultimo barlume di spirito razionale, i coniugi Baliani si districano, corrono di sopra e si chiudono dentro. Lidia Ravera busserà invano alla loro porta. I due non parteciperanno all'ultima serata. Invano busseranno la forza pubblica, il sindaco, il libraio, padre Amort, un parente accorso da Parma. Invano busseranno tutti gli scrittori del convegno in ordine alfabetico: Alberti, Bonvicini, Lodoli, Pacifico, Pariani, Petrignani, Veronesi. Invano si cercò di buttare giù la porta, una forza arcana che nessuno seppe spiegarsi la rendeva invulnerabile. I coniugi Baliani non ripartirono più. Sono ancora all'hotel Mezzatorre. Gli passano i pasti dalla finestra con un cestino. A casa loro i bambini piangono, i pesci rossi sono stecchiti, le tournée disattese, gli editori furenti, i palchi innalzati per le performance se li portati via la pioggia. Innumerevoli le tavole rotonde e i dibattiti di TV, giornali, Twitter sullo strano caso. Non v'è sessuologo o teologo o facebookiano che non abbia detto la sua, senza venirne a capo. Anche il fantasma di Ada, l'unica a sapere la verità, ha fatto una piazzata davanti alla porta chiusa nel tentativo di stanarli. Invano. Lidia Ravera è contenta. Voleva riportare un po' di passione nella letteratura italiana. C'è riuscita. Charmanca, charlatanca. Dopo questa lettura eseguita con Marco Fabio Apolloni, io devo chiedere scusa alle ombre, e mi succede spesso, perché io ho un conto aperto con le ombre e ne ho sempre scritto molto liberamente, e se c'è un al di là mi chiedo se qualcuno poi me la farà pagare. Ce n'è un bel manipolo: Majakovskij, Tolstoj, Foscolo, Leopardi, altri, e magari adesso al gruppo degli scontenti si aggiunge pure Ernesto Rossi, per il quale ho la massima ammirazione. Ricordo cos'è stato per la mia generazione poter leggere i Padroni del Vapore o Il Manganello e l'Aspersorio, quest'ultimo sulla complicità tra Chiesa e fascismo, e poi Il Manifesto di Ventotene, prima idea di federalismo europeo. E circa la frase che lui dice, che può sembrare irriverente e inventata da una spensierata autrice come sono io, quando Ernesto Rossi esclama: ah, i beati tempi del confino. Ecco, questo si evince dalle sue lettere, perché invece è sua la frase quando si rallegra delle grandi conversazioni che ha potuto fare con i suoi compagni. E d'altronde la rivoluzione non la si fa mai così bene come quando la si prepara o la si immagina. Mi ricordo un famoso vaticanista, Yevgeny Onegin, russo, per la sua opposizione al regime era stato mandato in Siberia per 8 anni con i suoi amici, con i suoi compagni di idee, e ancora lo rimpiangeva. Qualche settimana fa, parlando della trasmissione televisiva di Stella Pende, Confessione Reporter, su Italia 1, avevamo parlato dei Rom, perché c'era un documentario di Moni Ovadia, il quale lavora con loro, compongono musica insieme, hanno anche pubblicato dei dischi, e sono arrivate delle lettere di protesta di ascoltatori i quali pensano che gli zingari siano il male, che non hanno voglia di lavorare, che sono soltanto ladri e che quasi tutti i ladri sono rom poi alla fine, particolarmente questa non firmata. Nella mia città annualmente sono censiti circa 1800 furti e tentati furti. All'anno in appartamenti e statisticamente il 90% di questi sono opera di rom, i quali rom sono stati uno dei bersagli della Lega e poi si è scoperto che rubavano a man bassa anche quelli della Lega. Quindi sa, quando parliamo di furti stiamoci un po' attenti. In ogni caso io non ho parlato bene degli zingari, perché gli zingari sono persone e io non so amare oppure odiare per categorie. Stavamo parlando, come dicevo, del documentario su Moni Ovadia, che li conosce, ci lavora, fanno musica insieme, e Ovadia non vive nella paranoia di un immaginario pericolo zingaro. Ed erano intervistati in questo documentario questi tanto temuti e odiati rom, e tra l'altro rom vuol dire uomo. Avevano un nome, un cognome, delle facce, cosa che non succede quasi mai. E che avevamo detto l'altra volta, sono presentati sempre dalla stampa, dalla TV, dall'immaginario comune, come pelle rossa nel film western, fino agli anni 70, in cui era molto raro che ci fosse un personaggio, c'era sempre quest'orda barbarica che voleva uccidere i poveri bianchi, che fra l'altro erano quelli che stavano compiendo un genocidio che poi gli è pure riuscito pienamente, perché ormai i pelle rossa in America si contano sulla punta delle dita. Uno dei due ascoltatori si rallegra quando le camionette invadono i campi e fanno dei veri rastrellamenti e li trattano tutti, dai bambini ai vecchi, come dei criminali solo per il fatto di essere zingari, evocando altri rastrellamenti, anche quelli per categorie. Ecco, l'ascoltatore si rallegra, io invece mi sgomento. Oltre al senso della giustizia, mi sgomento, io mi spavento per me, mi spavento perché loro siamo noi. Caro ascoltatore, io credo che lei faccia male a rallegrarsi di questa intolleranza, perché una volta assunta questa mentalità, un giorno toccherà a lei o a me di essere rastrellati, un giorno toccherà a chi ha gli occhi verdi o il naso corto o a quelli alti meno di 1,50 m. Loro siamo noi. Perché finché ci sono gli zingari, vuol dire che l'essere nomadi, il non essere inseriti in un assetto sociale come il nostro, sia un crimine che privi di ogni diritto. La prego, si informi lei. Ci sono anche molti zingari che lavorano. Certo, molti anche rubano, spacciano, però questo lo fanno anche i non zingari, lo fanno gli stanziali, lo fa il suo vicino di casa. Se lei è così indignato, beh, ci sono anche dei ladri molto dannosi che occupano delle importanti cariche politiche e rubano molto più degli zingari. E in ogni caso il principio che mi interessa difendere è il fatto che sia possibile che una comunità differente possa vivere pacificamente in un'altra comunità. Naturalmente se non si macchiano di colpe, se non fanno qualcosa contro la legge, altrimenti vanno puniti come tutti gli altri. Queste sono due poesie di Langston Hughes. Questo si chiama Umore di nostalgia. Il ponte della ferrovia è un triste canto nell'aria. Il ponte della ferrovia è un triste canto nell'aria. Ogni volta che passano i treni voglio andare chissà dove. Andai alla stazione, avevo il cuore in bocca, in cerca di un vagone che mi portasse nel sud. Umore di nostalgia, signore. È una cosa terribile. Umore di nostalgia è una cosa terribile. Per trattenermi dal pianto, apro la bocca e rido. Questa è tra le primissime poesie che ha scritto Langston Hughes durante un lungo, lento viaggio in treno da una parte all'altra dell'America. E si intitola Il negro parla di fiumi, alla quale si ispirò Giuseppe Ungaretti in una poesia non altrettanto famosa ma bella, sempre sui fiumi. Ho conosciuto fiumi. Io mi immagino questo ragazzino in treno, in terza classe, con un po' di cibo, col pane che diventa secco durante il viaggio, perché il viaggio è molto lungo, e però ha un taccuino piccolo, già tutto mezzo scritto, e scrive questa poesia dove ripercorre i fiumi di lui, nipote di schiavi africani, nato in America. conosciuto fiumi. Ho conosciuto fiumi antichi come il mondo e più vecchi che non lo scorrere del sangue umano nelle vene. La mia anima si è fatta profonda come i fiumi. Mi bagnai nell'Eufrate quando le albe erano giovani. Costruì la mia capanna presso il Congo e mi addormentai blandito dalla sua voce. Guardai il Nilo ed eressi le piramidi sopra di esso. Udii il canto del Mississippi quando Abe Lincoln scendeva a New Orleans e ho veduto il suo corso fangoso mutarsi tutto in oro nel tramonto. Ho conosciuto fiumi, antichi fiumi tenebrosi. La mia anima si è fatta profonda come i fiumi. Capitaneria di Porto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.